Or nel settimo mese venne Ismaele, figlio di Natania, figlio di Elisamà, di stirpe reale, insieme a 10 uomini presso Godolia, figlio di Achicam, in Mispa, e là in Mispa mangiarono insieme. Allora si levò Ismaele, figlio di Natania, insieme ai 10 uomini che erano con lui, e colpì con la spada Godolia, figlio di Achicam, figlio di Safan, e fece morire colui che il re di Babilonia aveva preposto nel paese. Ismaele uccise anche tutti i giudei che erano con Godolia in Mizpa e i caldei, uomini di guerra, che si trovavano ivi. Il giorno dopo l'uccisione di Godolia, quando ancora nessuno lo sapeva, arrivarono alcuni da Sichem, da Silo e da Samaria, 80 uomini con la barba rasata e i vestiti stracciati e sfregiati, portando nelle loro mani offerta e incenso per offrirli nel Tempio del Signore. Uscì loro incontro da Mizpa Ismaele, figlio di Natania, mentre essi camminavano piangendo. Quando li ebbe raggiunti, disse loro: «Venite da Godolia, figlio di Achicam». Ma quando essi giunsero nel mezzo della città, Ismaele, figlio di Natania, e gli uomini che erano con lui, li scannò e li gettò in una cisterna. Ma 10 uomini che si trovavano tra essi dissero ad Ismaele: «Non farci morire, perché noi abbiamo nascosto nel campo grano, orzo, olio e miele». Allora si astenne e non li fece morire assieme ai loro fratelli. La cisterna dove Ismaele fece gettare tutti i cadaveri degli uomini che aveva ucciso era la grande cisterna che il re Asa aveva costruito contro Baasa, re di Israele. Ismaele, figlio di Natania, la riempì di trafitti. Quindi Ismaele deportò tutto il resto del popolo che era in Mizpa, le figlie del re, e tutto il popolo rimasto in Mizpa, al quale Nebuzaradan, capo della guardia, aveva preposto Godolia, figlio di Achicam. Ismaele, figlio di Natania, li deportò e partì per passare agli Ammoniti. Quando Giovanni, figlio di Careca, e tutti i principi dell'esercito che erano con lui udirono tutto il male che aveva fatto Ismaele, figlio di Natania, radunarono tutti gli uomini e partirono per combattere contro Ismaele, figlio di Natania, e lo trovarono presso le grandi acque che sono in Gabaon. Quando tutto il popolo che era con Ismaele vide Giovanni, figlio di Careca, e tutti i principi dell'esercito che erano con lui, si rallegrarono, e tutto il popolo che Ismaele aveva deportato da Mizpa si rivoltò e passò dalla parte di Giovanni, figlio di Careca. Però Ismaele, figlio di Natania, poté scampare con 8 uomini di fronte a Giovanni e se ne andò presso gli Ammoniti. Allora Giovanni, figlio di Careca, e tutti i principi che erano con lui, prese tutto il resto del popolo che Ismaele, figlio di Natania, aveva deportato da Mizpa dopo aver ucciso Godolia, figlio di Achicam. Erano valorosi uomini di guerra, donne, fanciulli ed eunuchi, quelli che ricondusse da Gabaon. Ripartirono e sostarono in Gerut Chimam, che è di fianco a Betlemme, per poi proseguire e andare in Egitto, lontano dai Caldei, perché avevano timore di loro, giacché Ismaele, figlio di Natania, aveva ucciso Godolia, figlio di Achicam, che il re di Babilonia aveva preposto nel paese.